sono Alice Prati e ho deciso di fare un disegno per, non so, rappresentare un po' Borgo Sacco e ho deciso di... Vabbè, è così. Come se si sbirciasse da una serratura, perché ho, tra le foto che abbiamo fatto ne ho visto una dove c'era la serratura. Noi dall'esterno abbiamo guardato dentro a Borgo Sacco e nella parte in alto ho deciso di mettere anche la mappa, come quella di Nicole, e comunque è come rappresentare il lavoro che abbiamo fatto noi della ricerca dei suoni. E volevo come dare l'idea che noi eravamo all'esterno, soprattutto inizialmente. E poi se tu guardi da una serratura devi avere più attenzione. E noi abbiamo avuto attenzione nella ricerca dei suoni, perché comunque dovevamo stare attenti a sentire i suoni e a registrare quello giusto, insomma. E quindi così. L'altra volta avevo fatto l'esempio che del signore dell'officina e di quello che ci ha portato a fare il giro. Entrambi si lamentavano abbastanza che Borgo Sacco è un paese per vecchi ormai, che non c'è più molto, che i negozi chiudono. Però il signore dell'officina era abbastanza, cioè, arrabbiato e non sapeva bene cosa fare. Invece quello che ci ha portato a fare il giro si stava impegnando anche per, non so, per cercare di cambiare le cose, magari anche solo mostrandoci il suo paese, insomma. Ho fatto il ponte, la strada e poi i negozi chiusi e vicino ho fatto il presepe e l'officina, perché comunque sono due realtà interessanti e diverse dal solito, e poi la facciata di Casa Fedrigotti, perché mi piaceva comunque. E c'è il ponte che collega Borgo Sacco all'esterno e il fiume, perché è comunque una realtà importante per Borgo Sacco il fiume, in qualsiasi caso.